Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. È ovvio che sia così. Veronica, non essere sempre contro prescindere ai sindaci di centrodestra. Per la polemica sterile, io che lavoro in via Melchiorre Gioia, angolo via Galvani, ce l'ho con tutti quei genitori che lasciano la macchina in doppia fila per lasciare i figli a scuola. Beh, Milan, ciao, buon Natale. Cioè, io non la metto in seconda fila, giuro, ma portami a scuola lì. L'ascoltatore evidentemente lo sa. Però non, no. Giuno non la metto in seconda fila. Detta così viene da pensare che il tuo ascoltatore sappia, certo, che tu sa. La metti in seconda no, fila. No, adesso giuro. La parcheggio, sì, un po' incastrata, ma faccio passare tutti in seconda fila. No, permettimi. No, giuro. Mai messa in seconda fila. Permettimi. Buongiorno cari amici, funamboli sono tornati. Oggi abbiamo una puntata ricchissima, tanti temi, tanti funamboli, tante belle cose da raccontare. Qui la redazione freme, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti sono lì e al di là del vetro Peter Bescapè in regia qui a Milano. Qui al di là del vetro al buio c'è stato un blackout, un Alessandro Chiappini in regia. Beh, bello, incontro luce. Allora, bello, molto bello, diamo sei i soliti numeri, 800 24 00 24, questo è il numero se volete chiamarci per la diretta. E invece il numero... No, partito, non lo diamo più. No, è partito Peter Bescapè, è emozionato. L'avevi detto che fermeva la redazione. Allora il numero è 349-238-6666. E questo è il numero per mandare messaggi WhatsApp. Allora, ricordate cari ascoltatori, è due giorni che ne abbiamo parlato della questione del biotestamento. Al terzo giorno si può dire, Beatrice Lorenzin ha detto la sua, è molto interessante perché vogliamo mantenere alto questo tema, visto che abbiamo dedicato due puntate, no? Il biotestamento, l'opposizione di parte del mondo cattolico. Io dico solo una cosa, che il ministro Lorenzin ha parlato, ha detto sì, garantiremo l'obiezione di coscienza ai medici cattolici. Allora, siamo in una situazione in cui c'è una legge dello Stato che non prevede l'obiezione di coscienza. Un ministro che ha voluto questa legge e che dice rispetterò questa legge, poi aggiunge ma garantirò l'obiezione di coscienza. Ma Enrico, ma siamo il paese in cui, come dire, a dirla educatamente c'è sempre un po' di confusione, a dirla un po' con maleducazione siamo simili al circo. E dico il circo anche se il tema è molto serio e il circo non c'entrerebbe davvero. Però ecco, questa è la considerazione che voglio fare. E quella che voglio fare io è che il dubbio invece è sempre lecito rispetto ad alcuni atteggiamenti dei politici nel chiedersi quanto siano sempre strumentali a quello che accade intorno e alla ricerca del consenso. Cioè la Lorenzin tutto sommato ha fatto buon viso a cattivo gioco, nonostante la sua provenienza e insomma quale sia il suo orientamento lo conosciamo. Ha capito che i tempi per questa legge erano maturi, che ormai sarebbe stata approvata, e quindi è stata più o meno silente. Adesso, vedendo che si risveglia un certo mondo cattolico e che può esserci un'onda di un elettorato, decide di ammiccare e quindi garantisce l'obiezione di coscienza. Beh, è interessante, ecco, molto interessante se fosse così, molto interessante, cioè come purtroppo considerazioni che uno poi trae voglio dire dall'atteggiamento della classe politica. Siccome purtroppo non è la prima occasione, questa è un'occasione grave in cui accade, perché ha a che fare con i diritti civili e ha a che fare con le persone. Però diciamo che accade spesso. Ricordiamo che è alleata del PD, che chiaramente dice il ministro si sveglia un po' tardi, ora applichi una legge dello Stato. Però ne vedremo delle belle o delle brutte su questo tema. Veronica, delle belle non lo so. Allora, però, vogliamo partire da un'altra legge, una legge che invece non entrerà nella questione della fine legislatura, vale a dire la legge sul taglio dei vitalizi, il disegno di legge Richetti. Ormai ieri è stato il giorno decisivo per capire che non farà parte di questa legislatura, però con la prima funambola del giorno, c'è forse uno spiraglio alternativo sulla questione vitalizi. Il piano B sui vitalizi. Piano B, vediamo. Piano B, non so, lo chiamiamo così anche se non è ovviamente un surrogato, però il disegno di legge Richetti, che è quello che voleva tagliare i vitalizi, quelli già assegnati, quindi i vitalizi, gli ex senatori, gli ex parlamentari e magari anche quelli soprattutto che guadagnano una certa quota di vitalizio, è saltato, ormai politicamente è chiaro, ovviamente si sono si sono rinfacciati la responsabilità di questo salto in Parlamento, però c'è una proposta, chiamiamola alternativa. Senatrice Angelica Saggese del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, c'è da dire che anche qui ieri era prevista una riunione che è stata rinviata a oggi, quindi lei ci deve dare qualche anticipazione. A domani. Ci deve dare qualche anticipazione su quello che potrebbe succedere, visto che il disegno di legge Richetti è accantonato, però lei è prima firmataria di una proposta che prevede qua che cosa se dovesse passare. La proposta che avevo depositato un po' di tempo fa, che a nome di tutto il Partito Democratico, ricalcava un po' il lavoro che aveva già fatto la Camera prima della legge. Sì. E quindi prevedeva un prelievo di solidarietà scaglionato, ovviamente, a seconda dei redditi al di sopra di una certa fascia di reddito annuo. Sì. Un prelievo di solidarietà, anno. Interessante. Ma il tentativo è quello di mettere, come dire, di supplire a un'eventuale bocciatura della proposta Richetti, temendo che la proposta sia troppo... No, ma la bocciatura no, perché in aula non è stato calendarizzato. Sì, no, no, questo è chiaro. No, no, ma certo, non ci sarà. Ma lei temeva che fosse comunque, che ci fossero troppi pareri ostili. C'era qualche problema di maggioranza. Stesso Richetti, quindi se l'abbiamo definito il piano B, nuovo, certo. Quindi definendolo il piano B, definiamo giusto, cioè si era già portato avanti il Partito Democratico, lei prima firmataria, con una proposta alternativa. Perché questa proposta non deve passare in aula al posto del DDL Richetti, ma avrebbe un iter diverso? Questo è un iter deliberativo, perché era un intervento relativo soltanto al prelievo, quindi non prevedeva interventi di natura strutturale o altri interventi che comunque invece richiedono la legge. Secondo me il percorso ideale sarebbe stato comunque approvare una legge, perché la legge avrebbe messo, diciamo, un punto definitivo a questa vicenda. Quindi certo, io sono dell'idea tra coloro che sosteneva l'idea di dover andare in aula e di approvare la legge, così come hanno fatto alla Camera. Invece questa andrà all'ufficio di presidenza, no? Andrà all'ufficio di presidenza, sì, faremo una delibera dell'ufficio di presidenza, chiaramente comprende che la legge e la delibera hanno un valore diverso. Ma come è stata accolta dai suoi colleghi di partito? Perché è una proposta che rischia di essere invisa a entrambi, per qualcuno perché è troppo lieve e per qualcun altro invece all'opposto, no? È il paradosso. E infatti questo è il paradosso: per alcuni troppo lieve, per qualche altro invece no. Ci troviamo in una condizione in cui dobbiamo provare a trovare una maggioranza per poter approvare. Senatrice Saggese, per alcuni è troppo lieve, però attendendo il disegno di legge un po' più corposo, quello Richetti, e finisce la legislatura. Chissà se la prossima legislatura ce la faremo, almeno qualcosa forse. No, ma io sono d'accordo, ci mancherebbe altro. Dico anche di più, che stiamo addirittura lavorando ad una proposta che ci consenta anche di tener conto dei pareri che abbiamo ricevuto da un po' di costituzionalisti. Il Presidente ha chiesto alcuni pareri a dei costituzionalisti, e quindi stiamo lavorando alla luce di quello per provare a limare la delibera, la mia proposta, e per provare a trovare un'intesa più larga, insomma per provare a trovare i numeri per approvarla. Sì, è bene che vi tuteliate da questo punto di vista, anche perché mi risulta che già diversi ex parlamentari abbiano fatto ricorso. In 20 hanno già ricorso. Ancora non si sa se è approvato questo taglio, questo questo prelievo di solidarietà che già 20 hanno detto noi ricorreremo contro. Oltretutto, senatrice, mettendo già le mani avanti, per esempio leggo Malan che dice: è chiaro che non voteremo mai un provvedimento incostituzionale che porterebbe a restituire con gli interessi le decurtazioni. Quindi si mettono non le mani avanti di più rispetto a questo. Ma c'è una questione sostanziale di questo tipo, perché è chiaro che se dovessimo avere torto, qualora decidessimo di approvare, insomma, qualora passasse questo tipo di provvedimento, come l'ha fatto la Camera, alla Camera hanno già impugnato la delibera. Sì. È qua il tema, che i ricorsi ci sono già stati alla Camera. Quindi lì dove c'è stata già anche qualche pronuncia sulla questione, quindi è chiaro che ci sarebbe una responsabilità, esporremmo gli enti, l'ente, il Senato, alla restituzione non soltanto delle somme, ma ovviamente anche degli interessi. Sì, ci può dire, questo è ovvio, chiaro, senatrice. Per cui bisogna stare molto attenti, davvero in questi casi ci vuole la diligenza del buon padre di famiglia. Allora, per concludere, perché tanto poi è rinviato a domani, quindi vedremo sotto Natale, proprio scopriremo se questa delibera salta oppure c'è, ci dia un numero per capire questo prelievo di solidarietà, quanto potrebbe portare di risparmio, su che soglia interverrebbe? L'importo in termini assoluti non lo ricordo, non lo so, non ho fatto il conteggio. Vabbè, dove interverrebbe? Una come soglia che comincerebbe, nella proposta attuale partirebbe da 70.000 euro e ricalca quella che ha fatto già la Camera in delibera. Ah, okay. Io mi auguro che questa è la volontà del Partito Democratico, che si possa addirittura, diciamo, scaglionare un po' meglio, va, uso in termine più, cioè, non ho capito, nel senso che i prelievi verranno fatti su chi guadagna come vitalizio sopra i 70.000 euro. Ah, perfetto, sì. Perfetto. No, allora la proposta è questa, nel mentre si sta lavorando per cercare di superare alcune criticità che la Corte ha già sollevato su questa proposta, e questo è il tema che vorrei evidenziare. Siccome le ha già evidenziate, stiamo lavorando ad un'ulteriore proposta che ci consenta di superare queste difficoltà, in modo da poter garantire l'obiettivo, possibilmente nel rispetto del quadro. No, ma è chiaro, noi la ringraziamo e staremo a vedere. Qua su questo tema dei vitalizi è sempre una bella battaglia, me li vedi proprio i duellanti, i vitaliziati che dicono appena si apre bocca dice è incostituzionale, ma per carità fanno valere un loro diritto se c'è una Corte Costituzionale. Poi ormai siamo arrivati al paradosso che non dicono neanche più che non sono d'accordo, dicono no, perché se fosse incostituzionale non è il caso, perché poi c'è il rischio di dover restituire tutto con gli interessi, quindi comunque, non è che io non sia d'accordo, è la Costituzione. Vogliamo salutare la senatrice Angelica Saggese del Partito Democratico e introducendo il secondo funambolo, che però abbiamo chiamato perché ascoltasse la senatrice Saggese, perché se si discute a livello centrale di questi possibili tagli dei vitalizi o tagli che non ci saranno, qui in un comune a Morciano di Romagna, quindi siamo in provincia di Rimini, il sindaco ne ha decisa insieme alla giunta una delle sue, possiamo dire così. Giorgio Ciotti, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, grazie di essere qui sindaco. È il nostro prossimo funambolo che ha deciso con la giunta, quindi con tutti gli assessori, di decurtare la propria indennità del 40% circa per utilizzare questi soldi per installare telecamere di sorveglianza per il territorio comunale. Non è esattamente corretto. Bene. No, perché sembrava fantascienza, quindi probabilmente ora ci riporta alla realtà, ci dica. No, siamo oltre la fantascienza, noi ce lo siamo tagliati del 66%, del 40%. Vabbè, quindi ciò che rimane è il 34%. Vabbè, diciamo, sono stato anche un po' sottodimensionato. 66%. Quello. Intanto quant'è la paga, cioè giusto, ci faccia capire. Guardi, di un comune. Nel comune di Morciano, che è un comune di circa 7.000 abitanti, nell'immediato entroterra di Riccione, lo stipendio del sindaco dovrebbe essere previsto dal minimo di legge 1.500 euro. Io prendo in realtà 288 euro. Ecco, questo è il dato reale. Per questa decurtazione o per altri motivi? Per questa decurtazione, in funzione di questa decurtazione. 288. Sì. Sindaco, però la domanda sorge spontanea, quindi lei non si mantiene attraverso la politica? No, penso di no. Spero. No. La nostra scelta, e la mia, ma anche di di tutti i componenti della giunta è stata quella di dire il nostro impegno amministrativo è una parentesi nella nostra vita, noi abbiamo il nostro lavoro, continuiamo a lavorare, utilizziamo quello che gli strumenti di legge ci permettono, cioè i cosiddetti permessi orari, ma soprattutto abbiamo deciso di individuare gli orari dei consigli, delle giunte e quant'altro fuori dall'orario di lavoro tipicamente di una persona, al fine anche di evitare i rimborsi che evidentemente i datori di lavoro poi vorrebbero stante l'assenza del dipendente. Ecco, quindi... no, adesso ci spiega la motivazione, non abbiamo detto di che partito, lista civica, non lo so. Noi quando me lo chiedono io rispondo sostanzialmente così: noi eravamo tre liste nella scorsa competizione elettorale di giugno, una dei 5 Stelle, una del PD e poi c'erano tutti gli altri, ecco, noi siamo dentro tutti gli altri. Tutti gli altri, beh, possiamo dire di centrodestra, possiamo identificarli così, centrodestra, no? Giusto per far capire agli ascoltatori. Diciamo che la base politica è quella, ma la lista civica è ben più ampia. Ben più ampia. Senta, Sindaco, sulle premesse che ci ha spiegato, insomma, di come avete decurtato gli stipendi, deduco, visto che si discute molto di quanti mandati parlamentari possano fare, che voi abbiate l'obbligo di fare un solo mandato per non finire sull'astrico, credo che questo sia implicito. No, l'importante è mantenersi stretto il proprio lavoro, ecco, questa è la prima condizione. Questa è la prima condizione. Ma guardi, per molti sindaci è così. Però è importante che ci faccia capire perché, intanto due cose mi sono poco chiare. A, sappiamo le ristrettezze dei comuni che sono sempre a contare i soldi che hanno, certo. E quindi forse questo è il problema, non avevate soldi in bilancio. E secondo, perché li avete destinati per la sorveglianza sicurezza del territorio comunale. Esatto. Esattamente, guardi, la prima domanda, la risposta è questa. Noi veniamo da una situazione un po', come dire, garibaldina da un punto di vista della gestione del bilancio, tant'è che il mio comune quest'anno è stato commissariato e ci sono state poi le elezioni anticipate. Non dia anche lei la colpa al predecessore. Non do colpe a nessuno. No, perché lo fanno tutti in Italia, anche a Morciano di Romagna lo fanno. Ma dopo che ci siete decurtati così i vitalizi si può fare, secondo me si può dare la colpa al predecessore. No, attenti che non sono vitalizi questi. Stipendio. Ha ragione. Veniamo da una situazione un pochino difficile rispetto alla quale noi ci troviamo in una situazione in cui il bilancio è per così dire incomprimibile su alcuni capitoli di bilancio. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che serve per la mission quotidiana del comune non è più riducibile, parlo di scuole piuttosto che trasporti, piuttosto che handicap e quant'altro. E fatto un conto del bilancio in quanto tale, di fatto l'amministrazione si troverebbe a gestire dell'intero bilancio la possibilità di alcuni punti percentuali, quindi noi avremmo dei gradi di libertà di intervento per alcuni punti percentuali dell'interesse del bilancio. Allora, più che un sindaco e una giunta, probabilmente ci vorrebbe un amministratore di condominio, stante che le somme poi alla fine sono così limitate. Quindi l'unica fonte certa che potevamo in qualche modo individuare senza far danni su alcuni altri capitoli di spesa era appunto questa. Che tra l'altro è una somma, lei dà 1200 euro al mese, gli assessori un po' meno, visto che guadagnano un po' meno, sì, però circa la metà. Arriva insomma una cifretta mensile, ma perché c'è la necessità? Sì, perché? A circa 60.000 euro l'anno, che se lei li spalma su una legislatura sono circa 300.000 euro, e quindi la scelta è stata quella di dire: non spalmiamo questa cifra tra i vari capitoli del bilancio in modo tale da sostanzialmente buttarli via, ma individuiamo un'opera interessante, un'opera magari non immediatamente e strutturalmente prioritaria, ma che comunque è necessaria e stante la ristrettezza di bilancio la metteremmo con una priorità. E 2, quale 3, sarebbe 4, quest'opera? Quant'altro. La sicurezza. Allora, sì, no, che non è un'opera ma è una... Guardi, innanzitutto le dico esattamente dove sta Morciano. Probabilmente i vostri ascoltatori sapranno tutti dove è Rimini, Riccione Cattolica. Noi siamo a 7 minuti da Riccione, 8 minuti da Cattolica, e siamo un comune molto concentrato, un comune di fondovalle, dove io ho considerato una sorta di grande spartitraffico per il collegamento costa entroterra, dove chiunque voglia collegarsi con l'entroterra riminese deve passare per il comune di Morciano. Allora, stante anche tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi, gli standard di safety and security che anche il prefetto Gabrielli ha in qualche modo identificato, e ragionando nel comitato per l'ordine e la sicurezza della provincia di Rimini, si è ritenuto che Morciano fosse quel luogo geograficamente strategico al fine di incrementare, diciamo così, la sicurezza e il controllo proprio per la strategicità, no, del luogo stesso. Ma non ho capito, scusi sindaco, perché ci sta facendo una grande descrizione di Morciano, ma cosa succede esattamente di allarme dal punto di vista della sicurezza? Per andare da Rimini bisogna passare da lì. È lungo il tragitto per poi andare a Rimini. E quindi? E che succede? Uno durante il tragitto passano i criminali, non lo so, cioè non ho capito. Succede che l'intero entroterra della nostra provincia non è dotato di quegli strumenti di minima che sono oggi tendenzialmente le telecamere. Quindi qualsiasi cosa possa accadere, servono, purtroppo. O sei fortunato in caso di necessità di venire ripreso da una delle classiche telecamere dei bancomat, oppure non hai speranze. Ecco quindi, come vi dicevo, che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha spinto e ha consigliato una sorta di controllo dei varchi che non sono solo ed esclusivamente il controllo della pettinatura e del trucco della signora che esce la mattina va da sé, ma è un controllo in modo particolare delle targhe al fine di controllarle con la cosiddetta blacklist che sta presso il nostro esatto ma interni. Mi torna in mente l'episodio di quest'estate, cioè, no, della, ma non è che tutti i comuni sono così, però, cioè, no, dove però sono... penso a Rimini, che è una città appunto che è stata particolarmente attenzionata quest'estate, ricordiamo l'episodio dello stupro di gruppo e quindi poi la difficoltà di ricostruire, quindi credo di aver capito che l'obiettivo sia quello, anche in caso di episodi che si verifichino nei territori limitrofi, sapere che c'è un deterrente. Ma per carità, cioè, insomma, poi si può scegliere se telecamerizzare tutto il territorio, ecco, utilizzo questo neologismo, nel senso se... Più che tutto il territorio, io credo, ecco, che le principali porte d'accesso, quindi le principali strade provinciali e statali che intersecano il territorio, ecco, controllarle. Se fossero dotate di questi apparecchietti che, come dico, sono collegati immediatamente al Ministero dell'Interno e fanno una verifica sulla targa per verificare se è rubata, se è in quel momento un fermo auto oppure se è priva o meno di assicurazione, eccetera, possa portare anche per i residenti quel quid in più, diciamo così, di sicurezza avvertita che può fare la differenza. Questa, insomma, è la scelta che avete fatto. Noi la ringraziamo molto. Giorgio Ciotti, Morciano di Romagna, provincia di Rimini, decurtazione del 66% dello stipendio, sindaco e assessori per posizionare telecamere in nome della sicurezza. Tu sei perplesso su questa scelta, complimenti sul fatto di avere trovato dei soldi per il bilancio comunale in tempi di ristrettezze così, poi uno insomma sulla scelta averli trovati si fa per dire, insomma, sono soldi loro, quindi averli trovati che trovarli è sempre difficile, però se uno si toglie i suoi si trovano. Allora c'è Alessandro dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno a voi. Sì. Eccomi qui, ho sentito l'inizio della trasmissione, la dichiarazione della Lorenzin, io sono balzato sulla sedia perché dobbiamo smetterla di prenderci in giro. Dico, l'obiezione di coscienza aveva una sua ragion d'essere introdotta la legge sull'aborto, era una fase di transizione, si volevano salvaguardare quei medici che ancora svolgevano l'attività quando l'aborto era vietato, giusto? Quindi si doveva salvaguardare quella fascia che ancora infatti temeva. Molti dicono che storicamente ora non avrebbe più senso, però bisognerebbe cambiare la legge, quella sull'aborto. Bisogna cambiare quella legge, ma non è più fin tanto che c'è lì c'è l'obiezione che il dipendente pubblico a qualsiasi livello, perché se vi ricorderete anche subito dopo l'approvazione della legge sulle unioni civili ci fu chi disse io farò obiezione di coscienza come e non li celebrerò. Come no. Tu, pubblico dipendente, a qualsiasi livello, in qualsiasi comparto della pubblica amministrazione. Sì, ma guardi, lì l'ha detto qualche sindaco, ma poi ha detto no, ma farò obiezione, nel senso che manderò avanti il funzionario pubblico. Nessuno ha sfidato la legge dello Stato, cioè non si mettono loro magari come sindaci, ma fanno fare a un funzionario dello Stato in comune e il matrimonio è garantito. Qui invece ci sono medici che dicono piuttosto andrò in galera

Allora, siamo qui, sono le 9:35 minuti. Il funambolo che ora vogliamo introdurre è stato protagonista. Oggi ne parlano tutti i giornali, Libero in prima pagina, La Stampa, Repubblica. È stato protagonista sul treno regionale Brescia-Cremona all'altezza di Olmeneta di un episodio che è stato ripreso tra l'altro da una passeggera e che nei momenti concitati è questo. Dammi il palmare! Non ti do niente finché non mi porta la mia carta! La carta te la vai a pigliare! Va bene, vai a prendere la mia carta e io ti do col palmare! Hai capito? Prendi un schiaffo! Magnari, però se qualcuno li ferma, c'è! Ancora molla! Fermati! Ma la cosa? La mia carta di credito io ho dato per prendere la mia, i miei soldi, l'ha buttato! Perché? Perché devono e farsi vedere che non si paga di là! Bene. Questa ultima esclamazione, che forse si è capita poco, ma è negro di merda, l'ha pronunciata il capotreno, che era uno dei due protagonisti insieme a un senegalese di questa rissa vera e propria. Giordano Stagnati, buongiorno, lei è il capotreno. Buongiorno. Che è stato licenziato dopo questo episodio da Trenord. Sì, esatto. Guardi, noi l'ascoltiamo, ecco, non è che ci deve, cioè qua c'è solo lei ovviamente a dare la sua versione, quindi... No, mi dispiace, questo episodio purtroppo è finito male, è iniziato male, è finito peggio, però purtroppo, a parte che il video è parziale perché riprende solo metà, tutto quello che c'è stato prima, i suoi insulti nei miei confronti, il suo volere insomma, iniziare l'aggressione, lui, insomma, io semplicemente ho reagito anche in malo modo a un'aggressione. Cioè, ma mi faccia capire, lei gli ha chiesto il biglietto e questo signore, che vogliamo ricordare, è un signore senegalese regolare in Italia, mi risulta, almeno così scrivono i giornali, le ha dato una carta di credito per pagare, perché non aveva il biglietto, gli ha detto con una carta prepagata pago con questo. No, innanzitutto prima lui si nascondeva in bagno, poi è uscito e ho chiesto il biglietto, poi sono iniziati insulti da parte sua, italiano di merda, bastardo, razzista, eccetera. E così di colpo, senza motivo. Sì, sì, perché purtroppo chi è senza biglietto spesso usa questa alibi, quindi siamo razzisti, ma purtroppo si chiede a tutti i biglietti italiani e stranieri. Certo. E poi gli ho chiesto di scendere, visto che non voleva pagare, non scendo, alla fine mi ha dato questa carta prepagata che è risultata anche essere vuota, ecco. Vuota. Ma è come possibile che da lì sia arrivato? Perché lei ha detto ho sbagliato, quell'espressione, si è reso conto che nella rabbia quella cosa negro di merda non si deve dire, no? No, beh, certo che no, chiaramente in un contesto così, diciamo, io non ho perso il controllo lì in quella circostanza, chiaramente ho avuto quell'esternazione di poco felice, ecco, mi dispiace. Però non era mia intenzione, chiaramente a bocce ferme non l'avrei mai detta, io non ho mai tenuto un linguaggio così sul posto di lavoro e ho sempre avuto massimo rispetto di tutti, ecco. È stato licenziato. No, infatti, questo è abbastanza sconvolgente, ma lei fisicamente non ha reagito invece? No, io sono stato spinto in terra, ecco, e da lì ho... Non ho potuto fare nulla. Ci sono dei fotogrammi, devo dire che la stazza dei due è abbastanza impari. In un corpo a corpo è abbastanza impari. No, anche perché io sono un po' come 1,80 m, quello era quasi 2 m, insomma... Rischiava di finire peggio. Noi tante volte abbiamo raccontato, se ti ricordi Veronica, anche in passato, il lavoro, che è un lavoro delicato, quello dei capotreni, cioè ci sono aggressioni fisiche, è innegabile. Ricordiamo che anche questa settimana c'è stata ad Ostia Lido un altro episodio dello stesso genere, che evoca addirittura la testata di Roberto Spada, cioè un autista è stato preso proprio con una capocciata, una testata, perché stava facendo una pausa sigaretta e quindi quando... Il ragazzo gli ha chiesto a che ora si parte, lui ha risposto un attimo, sto fumando, e ha preso una testata. Però Stagnati, la questione è questa, l'azienda Trenord l'ha licenziata, so che lei farà ricorso, però se l'ha licenziata, cioè perché, qual è il motivo? È quell'espressione che ha usato oppure... Anche quello, sì, comportamento non consono alla mansione, alla divisa, e questa è la principale motivazione, poi il fatto che abbia potuto mettere a repentaglio la mia sicurezza e quella degli altri viaggiatori, ecco, però io non ero lì di certo a divertirmi, ero lì sul posto di lavoro e purtroppo quella situazione lì è degenerata in malo modo, ecco. Mi perdoni, ma come faceva a mettere a repentaglio la sua sicurezza? Perché lei metteva a repentaglio la sua sicurezza e quella degli altri viaggiatori? Facendo cosa con questa affermazione? Se partiva una rissa era totale. Già partita, lui era... No, ma dico totale anche con gli altri passeggeri, insomma. Immagino, Sì, sì, infatti, ecco, probabilmente per... Cioè, è quello che... Purtroppo non si sa mai come vanno a finire queste cose. Poteva finire anche con una coltellata, ecco, come è già successo. Ma lei cosa avrebbe dovuto fare, mi scusi, secondo, in quella situazione? Cioè, di fronte al non ho il biglietto e la carta che le ha dato è vuota, avrebbe dovuto in qualche modo dire vabbè, grazie lo stesso, cioè, andiamo avanti. Un'alternativa poteva essere quella, oppure dove contattare sempre le forze dell'ordine, chiaramente far perdere anche tempo al treno, perché chiaramente si chiede l'intervento, poi si deve aspettare, penalizzando gli altri viaggiatori che invece hanno pagato e giustamente vogliono fruire del servizio del treno in orario, ecco. Ma l'azienda le avrebbe permesso di dire vabbè, facciamo finta di niente, chiudiamo un occhio? O anche quello non sarebbe stato un comportamento retto, insomma? Anche quello, no? Perché chiaramente forse il regolamento la polizia ferroviaria, effettivamente è il credo che il regolamento imponga quello, cioè avvisare la polizia ferroviaria, no? No, infatti già dovremmo contattare le forze dell'ordine, però spesso e volentieri non è... o non ci sono in pochi, sono magari impegnati già in altri interventi, oppure siamo anche in paesini sperduti, perché a volte capita di essere in piena campagna e si debba... Io una volta li ho chiamati, era un sabato, ho dovuto attendere tre quarti d'ora, solo che poi si fa perdere il tempo agli altri che sono sul treno, magari hanno anche altro di meglio da fare. Ecco, ma infatti io deduco che dipenda anche dalla gravità dell'episodio che si sta verificando, cioè se c'è un episodio realmente grave uno chiama le forze dell'ordine, altrimenti pensa magari di poterla gestire in maniera così abbastanza fluida, e invece poi ci possono essere dei svolti di questo tipo. Senta Stagnati, ma lei cosa ne trae da questa vicenda? Intanto ha perso il posto di lavoro, anche se ha fatto ricorso, e questo sì, però mi dispiace più di tutto per quello, insomma, un buon lavoro al giorno d'oggi non è cosa da poco, ecco. Ci mancherebbe. No, perché sa, molti che scrivono dicono solidarietà al capotreno, eccetera. Lei ovviamente, mi pare di aver capito, si è pentita di aver detto quell'espressione molto così, che le è uscita in un momento di rabbia. Certo, però in quel momento lì appunto la rabbia e tutto non si bada a quello che si dice, cioè adesso così a bocce ferme, parlandone tranquillamente, è chiaro. Posso chiaramente dire che era un'espressione infelice, però lì per lì al momento... Nella concitazione chiaramente escono, certo. No, ma infatti io, guarda, non voglio fare, cioè non siamo giudici, non dobbiamo stabilire. A me pare abbastanza incredibile, cioè io non... È chiaro che è un'espressione che non bisogna dire, però dai, su, cioè ecco. In un momento di rissa, di aggressione, cioè può scappare delle cose, perché magari gli è scappato anche italiano di merda al senegalese. Allora infatti, quello non è razzismo. A proposito delle discussioni sul politicamente corretto, questa mi sembra veramente l'ipocrisia del politicamente corretto, proprio in questi casi qui, perché è evidente che qualunque genere di insulto, epiteto dispregiativo si fosse utilizzato in quel contesto, sarebbe stato da contestualizzare cosa alla diceva? Situazione. Allora, se diceva senegalese di M e non era razzista perché era solo la nazionalità, mentre negro si riferisce chiaramente in maniera sprezzante. No, ma anche se l'avesse insultato semplicemente con un insulto classico di quelli che si utilizzano tra automobilisti o all'interno di una lite, sarebbe stato diverso. Qui subentra veramente l'ipocrisia. Comunque, Giordano Stagnati, tra l'altro l'abbiamo chiamata, sappiamo che è su un treno, a meno se deduciamo dal rumore sottofondo. Non lo so, io voglio dire, lei era lì a fare il proprio lavoro, io non mi sento proprio di condannarla, anche se ovviamente è un episodio così degenerato, certo non si è controllato molto nella reazione, ma che le devo dire, non so, ci fa sapere come va la causa con Trenord? Ci fa sapere se... Adesso ho inoltrato ricorso e vedremo i futuri sviluppi. Mi fa piacere che ci sia stata tanta mobilitazione, manifestazioni di stima, di solidarietà tra amici, parenti, colleghi, conoscenti, così insomma non sembra, ma una parola di conforto in questi momenti può servire. Chiaro. Sì, certo. Noi ne diamo un abbraccio perché poi mi dicono no, ma il senegalese credo che sia andato via, poi è stato ritrovato tra l'altro col cellulare del capotreno, perché a quel punto della colluttazione, siccome lui gli ha detto tu mi tieni la carta, allora io ti prendo il cellulare, insomma sì, si è portato via Fossi il palmare e poi l'hanno ritrovato poco dopo, che tra l'altro si era anche cambiato i vestiti. Ma è stato arrestato? Sì, è stato arrestato. E questo è un destino che però non conosciamo e cercheremo di capire. Noi Giordano Stagnati, ripeto, capotreno, licenziato da Trenord, la ringraziamo per essere stato qui con la sua voce a raccontare questo episodio. Devo dire, Veronica, arrivano tantissimi messaggi. Certo, il clima quando si va sui treni, certo, se incontrate gente come Leonardo Manera sulle metropolitane che si approccia nervoso perché non va alle scale mobili, poi succedono queste cose. D'altra parte anch'io tutta la mattina vengo insultato in ogni modo quando sono in metropolitana. Ha dato un calcio una cinese, una bambina. Brutto Manera, Manera. No, mi dicono proprio pezzo di. No, sì, pezzo sì. Di Manera. Un pezzo di Manera, anche mi pezzo dicono. Di Manera. Chi è che si permette di dirti Manera di? Ma vengo lì io, eh. Mamma mia. Allora, dai, questi dicono assolvi. No, come non te la senti, dice Alfonso, devi assolvere il capotreno. Ma cos'è assolvere? Che sono? Sono il giudice allora... Santi Licheri. No, assolto. Sei Don Milani. No, ma io no, non lo Don so. Milano. Ho espresso solidarietà perché mi sembra esagerata questa cosa. Devo assolverlo. Assolverlo dei che? Mica è sotto processo. Comunque andiamo al traffico, poi rientriamo. Ecco, tutto risolto. Fantastico, grazie Francesco. È sicuro di non voler restare per un caffè? No, dovrei davvero andare. Sembri stanco, perché non ti siedi un attimo? Sono in ritardo, devo davvero andare. C'è un bellissimo film che inizia tra poco. Ciao Francesco. Ciao. Esso Supreme Diesel aiuta a mantenere il tuo motore in ottime condizioni. Così per un po' non vedrai il tuo meccanico. Scopri di più su esso.com. I funamboli. Metto il furgone in seconda fila e me ne vanto anche, perché altrimenti dove me lo metto in tasca? È inutile parlare, però non c'è mai posto. Basta con sti vitalizi, è così, lo capite? È così, vitalizi, è così. Mila, buongiorno, io ti voglio bene, ma ancora tu credi al taglio dei vitalizi? È così! È così, protestate pure, ma è così. Va bene. Effettivamente. Dovremmo mettere anche a Leonardo Manera e alle sue scale mobili rotte in Piazzale Udine. C'è la scala mobile rotta anche oggi a Piazzale Udine. Leonardo Manera arriva. Sì, è rotta anche oggi, porcaccia miseria. Ovvio. È così. Vabbè. Allora, Leonardo è andato un attimo, ci ha salutato ma si è spostato subito perché qua ha fatto un'irruzione. Veronica, sono contento, che è tornato c'è? Il direttorone Guido Baldo, direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. È che piacere che riaverla. Sì. Mi fa piacere essere presente ancora in questa radio. Finalmente. Della Confindustria, diciamo, sì. Anche giornalisti completamente proni alla Confindustria. Sì, possiamo dire che Alessandro siamo Mila, completamente prono sulle posizioni della Confindustria. Ma io devo dire oggi sono un po' preoccupato, ecco, preoccupato sono. Perché? Per mio figlio, perché si sa che nel periodo di Natale mio figlio ha scritto la lettera a Babbo Natale. Mio figlio voleva scrivere: Babbo Natale, comprami la PlayStation. E gli ho detto no, se scrivi così stai facendo pressioni a Babbo Natale. Addirittura. Scrivi invece: caro Babbo Natale, puoi valutare l'acquisizione della PlayStation? Che è la stessa cosa, ma è meno invadente, è più educato. Poi tra un paio di giorni gli scrive anche un tuo amico per dirgli prendere una decisione, per sollecitare una decisione. Non so perché, ma sei ispirato è lei a qualche vicenda. No, è lei che è malevolo. No. Quello di cui sto parlando non ha nessuna attinenza con fatti o persone realmente esistite, caro Mila. Bene, no. Nessuna. A cominciare dall'attuale sottosegretario ed ex ministra Maria Elena Boschi, che è brava. È brava, è brava. Ci ha fatto capire che pur avendo parenti stretti coinvolti in Banca Etruria, il suo interesse per la banca non era dovuto ai parenti, ma un interesse legato al territorio. D'altra parte, una persona che si chiama Boschi non può che essere legata al territorio. Boschi, foreste, non c'entrano i parenti. È brava, è brava. È giusto. Si preoccupa veramente per noi elettori. È brava. Muoverei solo un lieve appunto io alla signora Boschi, che se fosse coerente dovrebbe minacciare di querele risarcimento danni il signor Ghizzoni, che ha detto le stesse cose, Ferduccio De Bortoli, che è stato minacciato di querela per aver detto le stesse cose che ha detto Ghizzoni. E invece no. Ghizzoni che? Che è bravo, è bravo. Ghizzoni, anche De Bortoli. Anche De, bravissimo De Bortoli. Ghizzoni è stato lodato e De Bortoli è stato minacciato di querela. E non va bene, perché così Ghizzoni si deprime. Dice, cosa ho io meno di De Bortoli che ho detto le stesse cose? È questo che deve capire Marina Boschi. Ma comunque non importa, perché la Boschi è brava. È brava, è brava. Ma eravamo a Babbo Natale. È brava. E poi bisogna capire che al giorno d'oggi fare il politico è complicato. Non si viene considerati per nulla. Per esempio, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi fa una domanda al governatore della Banca d'Italia, ma il governatore non gli risponde. L'ex ministra Boschi va alle riunioni dei banchieri, ma non parla. È un mondo meraviglioso e per i politici principali adottano la regola olimpica. L'importante è partecipare, senza far pressioni, senza dire nulla. Stanno lì in silenzio, solo per il gusto di esserci, per dire forse un giorno ai nipoti, quel giorno c'ero anch'io con Visco, con Vegas, con Ghizzoni. E i nipoti, davvero papà, anche tu hai partecipato a un vertice di Unicredit. E com'era l'amministratore delegato di Unicredit, Ghizzoni? Ognuno si prende le sue soddisfazioni come preferisce, è un mondo meraviglioso, basta crederci, sono le nuove leve della politica italiana, come il signor Rettifica. Lei sa chi è il signor Rettifica? Signor Rettifica? Sì, Luigi Di Maio, un politico giovane, brillante. Signor Rettifica, addirittura. Al quale non devi mai dar retta la prima volta che parla, per sapere come la pensa devi sempre aspettare la rettifica, devi con aspettare tempo, che il suo pensiero si chiarisca, prima di tutto a se stesso e all'intero mondo. Luigi Di Maio, il signor Rettifica, l'uomo il cui pensiero si chiarisce 3-4 ore dopo che l'ha detto, è il nuovo che avanza, mentre del vecchio che rimane ricoperto dalla polvere di Cerone preferisco non parlare, perché mi metterebbe troppa tristezza. Buona continuazione e arrivederci, cari funambuli. Ma Di Maio, Di Maio? Signor Rettifica, è bravo. Il nostro Guido Baldo. Complimenti a tutti, anche voi bravissimi, buon Natale. Grazie. Signora Gentile, no, signora Alessandro Miglia, bravo, dal bravo. Direttore tu sei Guido bravo. Baldo. Ma che bravo. Sei bravo, no. Tu sei molto bravo. No, tra l'altro, per dire una cosa veramente specifica, mi ha molto colpito leggere oggi l'editoriale di Mario Calabresi, so che ne parlavano prima anche Giannino e Terese. Veronica, ma non so se hai sentito, hai letto Mario Calabresi, direttore di Repubblica, sul giornale, sì, insomma, coeditore De Benedetti, ex tessera numero uno del Partito Democratico, ha detto delle parole molto secche dicendo che l'uscita di scena a questo punto della Boschi è il passo necessario, indispensabile per provare a contenere i danni e mostrare ai propri elettori di aver compreso la differenza tra interesse generale e interesse familiare. Ma una parole durissime, proprio perché dalle prime colonne di Repubblica non è, come dire, un giornale di opposizione. Anche nell'opinione pubblica si sta un po' stringendo il cerchio attorno a Maria Elena Boschi e all'idea che la sua figura sia diventata una zavorra per il Partito Democratico, a prescindere poi, no, dal merito contestuale, che quindi la figura di Maria Elena Boschi in assoluto sia meglio accantonarla, se non altro a ridosso delle questo elezioni. Poi vedremo, perché anche oggi sulla stampa lei dice invece di no, che si candiderà, ma chiaramente è uno dei temi che ci porteremo in campagna elettorale. Vediamo se ce la facciamo con Marco Guido Baldo, però Benedetto Boschi a me piace, è bravo. La voglio votare ancora perché mi diverto con lei. C'è Marco da Parma, buongiorno Marco. Salve, mi scusi, ma c'ho un pezzo di panino in mano. È stupenda questa cosa. Non so, ma ha fatto bene a dire la verità. Tanto qui l'avremmo scoperta. Può fare. Parli col boccone in bocca. Perdono, io sono un montanaro delle colline di Parma. E quindi si mangia già un panino alle 10. È capitato questo. Parte che faccio una premessa. Sono d'accordissimo che chi non paga il biglietto deve pagarlo, eccetera. Io prendo il treno rarissimamente. Ma? Ho preso il treno a Molinella, che è una frazione di Bologna, nella stazioncina. Sì. Non c'era verso fare il biglietto, proprio c'era proprio dove certo. C'è il vetro, dove c'era per fare il biglietto, c'è una lamiera saldata. C'eravamo io e una signora con due bambini, ci siamo consultati, abbiamo detto lo faremo sul treno. Sì. Io sono salito sul treno, poi andavo a Bologna, costo del biglietto, va bene,

Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Una pecorella, due peco. Melatonina e valeriana ACT è un integratore alimentare a base di melatonina e valeriana. Acquistalo nelle migliori farmacie e parafarmacie. Melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio. Da oltre 20 anni Italia Più seleziona solo il meglio del brand Italia per raccontarlo ai suoi lettori. Scopri un altro modo di viaggiare attraverso la qualità e le testimonianze delle eccellenze italiane. Questa settimana in distribuzione il mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Per la tua comunicazione mirata chiama l'800 97 97 17. Italia Più è un progetto Publiscoop Più. Meraviglioso. In Italia siamo così abituati alla meraviglia che a volte non la notiamo. Quando in realtà è ovunque, anche nei campi, dove Orogel coltiva da sempre le verdure migliori, seguendo il ritmo della natura, curando ogni dettaglio, dalla semina al raccolto fino alle vostre tavole, per farvi riscoprire in ogni piatto tutta la meraviglia della nostra terra. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. I funamboli. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Buongiorno, tutto il mio sostegno al capotreno. Let the midnight special. Storia del capotreno che ha sbroccato con l'extracomunitario è sempre la solita storia: ci si accanisce contro il ladro di mele. Il signore lì è stato licenziato su pressione di quella brava signora che sta alla camera, la signora Boldrini. Ma il senegalese poi alla fine la multa se l'è presa o se l'è cavata pure senza multa? Beh, è stato arrestato, quindi più che la multa è stato arrestato, mi sembra che sia un po' più grave. Comunque, Veronica, dobbiamo iniziare la seconda ora dove abbiamo terminato la prima. Aveva lasciato Marco da Parma, che ci aveva raccontato di questo viaggio in cui non è riuscito a prendere il biglietto e poi siete stati fermati. Marco, eccoci. Sono qua, il panino l'ho finito. Oh, in realtà noi abbiamo fatto la pausa per questo motivo. Guardi, c'è ancora quello in bocca, perché a Parma abbiamo un prosciutto dolce che la gente... No, non ce lo dica, perché deve farci piangere adesso? Ma è bella questa cosa. E poi c'è un altro discorso, il cappuccio va fatto con la crema, non con la schiuma. Polemica sterile. È una polemica sterile. Se sì. Mi date la possibilità, dopo di vedere un'altra roba quando ho finito col biglietto. Vabbè, Marco, vediamo. Velocissimamente. Vabbè, facciamo un'oretta insieme. Velocissimamente. Salgo, va bene. Arriva questo signore che fa il biglietto, giustamente sì. Il controllore. Io mi alzo e gli dico, guardi, purtroppo non ho fatto il biglietto per questo e questo e questo. Sì. Perché non c'era la possibilità. Dice, va bene, lo facciamo con molta calma. E vedo che tira fuori un bollettario, capisco che mi sta facendo una contravvenzione. E gli chiedo, scusi, qua cosa sta facendo? Pago il biglietto doppio, triplo, insomma è anche giusto, perché non... Dice, no, sto facendo una contravvenzione di 88 euro. Ah, lei dice, ma come, non sono riuscito a comprarlo, biglietterie chiuse. Dico, guardi, se io tutti i giorni prendessi il treno e non pago, capisco, anche 2-3 volte, abbi pazienza, con bel modo, siamo io e la signora, cerchiamo di... Non c'è stato verso. Io sono abbastanza ben messo. Lo dicono, io non lo so. A quel punto arrivano altri due. Certo che se mangia panini alle 10, Marco, io posso capire. Se mangia panini alle 10, posso capire che sia ben messo. Ho fatto colazione adesso. No, ma Marco, lo lasci stare. Vabbè, no, adesso, ma Marco, adesso è, però è aspetti, aspetti, non possiamo fare un racconto perché noi la ringraziamo, però non possiamo fare 15 minuti di racconto. Cioè, diciamo che cogliamo questo aspetto. Lei potremmo distribuirlo in puntate. Esatto. Ed è stato multato per questo. Ed è stato multato, sì, ingiusto, perché effettivamente se non c'è la biglietteria giù, uno come fa? È un altro problema. C'è Paolo da Ischia su questo, credo. No, Paolo da Ischia è caduta la linea. E allora siamo pronti alle 10:11 minuti a introdurre il funambolo del giorno. Attenzione, cari ragazzi e cari genitori, parliamo di abbigliamento quando si va a scuola. Veronica non può parlare perché chissà come si presentava a scuola, non voglio sapere. Ancora adesso chissà come si presenta. No, sì, certo, vabbè, adesso sei leggermente cresciuta, non troppo. Ma poco, non troppo, abbastanza da presentarmi ancora in maniera improbabile. L'abbigliamento a scuola, guardate che è un tema poi che divide genitori, spacca famiglie, di questo parliamo. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Nome: Alessandro. Cognome: Clavarino. Età: 57 anni, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova, applica le regole del mondo del lavoro ai suoi studenti. Ed è il nostro funambolo del giorno, Alessandro Clavarino, buongiorno. Io li buongiorno. Chiamo, li chiamo presidi perché sono affezionato. Dirigente sì, sì, va bene così, presidi, va bene così. Sì, siamo dirigenti scolastici, ma cerchiamo faticosamente di fare i presidi. Sì, i sì. Presidi. Sentito che bella presentazione. Applica le regole del mondo del lavoro. Cosa fa? Li paga. Li paga. No, magari potessi pagare. Se fossimo in Germania, forse sì, in Italia devo soltanto fare scuola. No, li applica sull'abbigliamento. Quindi Le applico anche sull'abbigliamento, anche. Non solo sull'abbigliamento, anche sul preside, comportamento. La sua è una crociata di stile, sostanzialmente. Ma non è una crociata, è un'azione di buon senso, perché questi ragazzi che vengono a scuola qui, che possono venire naturalmente vestiti senza bisogno di griffarsi, perché non c'è bisogno di avere dei jeans strappati necessariamente. Firmati, devono venire vestiti sobriamente, perché glielo chiede il regolamento d'istituto, che è stato approvato da molti anni e che ha dato ottimi risultati dal punto di vista poi no, ma interessante questo, attenzione, perché qualche anno fa c'è stata una nota sul registro, una ragazza che portava i leggings. Poi sì. I tatuaggi, ecco, ci faccia capire i tatuaggi, perché è interessante a dire: guardate ragazzi, che voi siete tra l'altro in un istituto alberghiero, quindi farete poi un lavoro a contatto con il pubblico, e ci sono persone che per un tatuaggio non hanno avuto il posto di lavoro, e quindi è bene abituarsi. No, scusatemi, però devo un attimo un inciso sui leggings, io devo farlo. Lei è in grado di spiegarmi il perché? Sì. I leggings. Allora, no, sui leggings noi diciamo delle cose molto semplici, facilmente leggibili sul regolamento d'istituto, che è pubblico e quindi tutti i genitori, allievi e quant'altro vogliano informarsi su diciamo sulle regole della scuola, trovano precedentemente all'iscrizione, volendo. Diciamo che i leggings, come altri tipi di abbigliamento, devono essere, come dire, sobriamente portati, cioè i leggings e i nostri leggings non possono essere portati perché non sono un abbigliamento consono a quello perché? Che potrebbe essere. Ma mi scusi, qual è il criterio? Che sono troppo aderenti e quindi mostrano troppo il corpo? Per esempio, in una situazione, per esempio, sì, certo, questa potrebbe essere una buona approssimazione, nel senso che chi fa come dire, un lavoro come quello del aspetti, cuoco, devo spiegarle questo, devo spiegare questo, Clavarino, perché Veronica Gentili ha gli occhi sgranati. Stiamo parlando di persone, io non è che, cioè, lo ascolto, non mi sono ancora formato un'opinione, di persone, in questo caso ragazze, che poi un domani faranno le cameriere magari o lavoreranno. Allora, non è secondo il preside. Stiamo parlando dei leggings, che sono un indumento che si porta abbastanza abitualmente per far la cameriera, con disinvoltura. Forse, io credo che le ragazze tendenzialmente, ormai credo che si acquistino in tutti i posti, dalle catene dove vengono comprati a 10 euro. Ho capito, ma questo vuol dire cosa, cioè sembra più un rimando alla, certi, alla cultura islamica all'interno proprio delle celebrazioni religiose. Addirittura. No, no, no, ma no, non è questo il tema. No, no, no, stiamo divagando, non è questo il tema. Il tema è un altro. Quando la signora Veronica va al ristorante, sì, immagino vada a cercare di trovare un buon servizio, del cibo, certo, ben cotto, una presentazione gradevole, e immagino che dalla persona che la serve si aspetti un po' di simpatia, si aspetti, certo, uno sguardo attento alle sue esigenze. E un abbigliamento consono, però il leggings non lo è. Però preside, qualora la cameriera avesse i leggings servendomi, io non avrei problemi. Che l'abbigliamento del cameriere contempli i leggings, non ho mai visti né. E siccome, come dire, su questo però ha ragione, cioè, nella tradizione il cameriere non ha leggings, la cameriera leggings, nella tradizione poi, di qualità non ce lo vede il cameriere con i leggings. Però se lo trova me lo faccia conoscere, perché però in certi ristoranti tantissimi, nel senso che a meno che non c'è proprio una divisa specifica per cui il cameriere, certo, le ragazze abitualmente che servono al bar, nei ristoranti, cioè se non è uno stellato Michelin, tendenzialmente si può capitare. I ragazzi non possono andare a servire gli stellati Michelin, scusi. Però in molti ristoranti... No, certo, ma non lo stanno facendo contestualmente mentre vengono a scuola, ecco. Ma è questo il problema, ma si stanno abituando, perché non è che diventano capaci a 19 anni. No, ma questo è il punto, aspettate un attimo, dobbiamo dare il traffico, poi Leonardo Manera voleva fare una domanda. La questione è questa, il preside ci dice, noi li abituiamo a un mondo possibile che troveranno, se andranno in uno stellato si abituino a non avere i leggings, perché in uno stellato poi i leggings non lo possono portare. E quindi li abituiamo fin da scuola ad avere quell'atteggiamento. Certo, tu dici, Veronica, in una trattoria familiare la famiglia si veste o in come un bar scuola. Tavola calda, certo, o in un contesto in cui, ma lui ci sta dicendo, se li dobbiamo abituare anche alla possibilità di andare a servire in uno stellato, lì i leggings non lo potranno usare, no, quindi è bene che non lo usino da tu scuola. Tu hai ragione, aspetta, la nota sul traffico, registro e poi, vabbè, la nota sul registro, certo, se è vietato c'è la nota, il traffico, e poi rientriamo. I funamboli. Allora, con Alessandro Clavarino, preside all'Istituto Alberghiero Marco Polo, stavamo parlando di abbigliamento consono, ora siamo sui leggings, siamo a Genova, con Marco Polo. Ma no, la domanda è, se queste ragazze si vestissero con una gonna anche molto corta, come talvolta capita di vedere in alcuni ristoranti, anche di livello, avrebbe la stessa reazione oppure sarebbe diversa? Beh, allora, se il ragazzo si è abituato a portare dignitosamente la divisa di quella situazione, se... abituato bene, no? Quindi quando il padrone del locale decide, lo decide lui evidentemente, non il preside del sito alberghiero, che la foggia dell'abito di servizio è di un certo tipo, e se in quel caso sarà la gonna millimetrica, la persona valuterà. Insomma, una donna dice io non la metto questa divisa. Può anche decidere, no, tra l'altro è interessante perché il leggings è al femminile, ma l'equivalente potrebbe essere i jeans strappati per i maschi. Non va bene, perché quando faranno il cameriere non potranno portarle. Poi ci dica lei cosa non va bene, così facciamo la lista. Qual è il principio su cui lavoriamo? È che questi devono essere abituati alle richieste più severe, ok? Poi è sempre facile scendere nella richiesta, questo non è un problema. Cioè, se andando a mangiare, a lavorare nella trattoria, e non ha questo tipo di problemi, vabbè, avranno meno richieste. Ma siccome i ragazzi vanno a fare degli stage in locali molto importanti, vanno anche all'estero, voglio dire, dove la richiesta è veramente molto alta e severa. Quindi no piercing, no tatuaggi vistosi. No tatuaggi visibili, no, ecco, perché devono capire che quello che loro reputano normale può essere normale in un contesto non formale, non è normale in un contesto formale. Questo è il principio. Ma è la stessa cosa. Non lo trovo così assurdo. Non è assurdo, guardate, e purtroppo pigliano delle facciate, diciamo a Genova, molto dolorose, quando pensando di andare a fare i belli, i fighi, nei momenti in cui ci sono le selezioni, si presentano in un certo modo e vengono, come dire, cortesemente accompagnati. Perché non sono risultati consoni alla forma richiesta, e questo è il dato. Allora, come dire, siccome la scuola ha anche questo penoso compito, che è quello di dare un po' di formazione oltre che le informazioni, E qui fa così, se non gli piace. Veronica, che devi dire? Io il ragionamento lo capisco perfettamente. Sul leggings la questione era che appunto io personalmente non li trovo un elemento, vedo anche dei messaggi, persone che dicono io lavoro in ospedale, visito, lo faccio con i leggings, cioè non necessariamente io li trovo un elemento così di cattivo gusto o qualche cosa che possa turbare uno stile. Cioè sì, nel bon ton come... del cameriere stellato non è che lo stabilisci tu, una coi leggings non viene messa a servire. Il discorso è se poi però tutta una serie di cose, come giustamente sta dicendo il preside, rientrino o meno ancora adesso in quello che la cultura tollera o no. Penso ai tatuaggi, è oggi verosimile, vedendo come sono molte figure, anche molte icone per i giovani, che sono un tatuaggio unico che deambula, pensare di arginare il tatuaggio perché il tatuaggio è una mancanza di stile? Secondo, non lo so, ma tu secondo me, Veronica, cioè, lo metti come moda generale, ma calato nel contesto del lavoro che loro si preparano a fare, il tatuaggio è visto male, esatto. Cioè nel senso che è proprio censurato. È censurato. È visto male. Ci sono delle zone, cioè cambia dei scuola, posti, vai a fare la scuola d'arte dove il tatuaggio oppure sarà anche elevato. Sì, certo, oppure ti prepari a sapere che c'è una fetta di mercato che ti è preclusa. E perché io devo precludere una fetta di mercato agli studenti della mia scuola? Cioè, se vogliono, loro si tatueranno anche dalla testa ai piedi, ma non è questo il tema, non sono loro che di fatto si mettono fuori da un contesto. Allora, io te lo dico prima. Sì, diciamo, vuoi mettere il piercing, vuoi i tatuaggi vistosi e vieni a fare l'istituto alberghiero, avrai pochi sbocchi lavorativi. Pensa perché nessuno così ti prende. Pensa che Gianluca Vacchi voleva andare a fare l'istituto alberghiero, non può. È vero, no, Clavarino, lo conosce Gianluca. Io pensavo Gianluca anche a Fedez, basta senza arrivare tanti certo. Là. E infatti Fedez non fa il cameriere in uno stellato, fa il cantante. Ma dite allora, che qualora lo volesse fare sarebbe assolutamente impossibile che lo facesse? Temo di sì, Clavarino, non credo che Fedez verrebbe preso. Fedez lo conosce, anche molto apprezzato, non entrerebbe mai in alcuni ristoranti stellati. Mai. Va bene, Clavarino, noi la ringraziamo. In realtà ha animato un dibattito che è molto interessante, perché poi sai quanto i genitori al mattino con gli adolescenti, ma va in giro conciato così. Leonardo lo fa a suo figlio di 8 anni, ma va in giro conciato così. No, non è vero. Però ha animato un dibattito interessante, no, su questa tematica. Quanti ascoltatori, come facciamo? Mamma mia. Carlo dalla provincia di Genova. Carlo. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, il tema che volevo parlare su quel capotreno che è stato licenziato. Ma Carlo, lei è originario? No, è italiano? È originario? No, sono peruviano. Peruviano. Peruviano, che sono qua in Italia da 9 anni, quindi sì. nella mia vita che sono stato qua ho visto tante volte per colpa di un diciamo non italiano, siamo visti tutti male, cioè praticamente quando uno sale sull'autobus c'è la gente italiana che ti guarda male perché non paghi il biglietto, ma quindi cioè questo qua è un fastidio per noi. E al di là che di colore bianco, neretto o rosso, cioè bisogna rispettare le regole. Se uno va, diciamo, in un ristorante, se vuole mangiare, deve pagare, non è che mangia poi se ne va, no. Quindi questo qua bisognerebbe, come si dice in spagnolo, inoculare, conscientizzare alle persone a poter comportarsi come si deve. Va bene, rispettare le regole, certo. Grazie Carlo. C'è da dire che Veronica ci chiede Chef Rubio, effettivamente Chef Rubio. Ma infatti adesso sta... Ma lui è chef, ma sta cambiando anche programmi, tra l'altro, stravirando su programmi meno culinari. No, anche perché poi è sempre più contaminato il genere, vabbè, no? Non di questi chef che presenziano. Sì, io, vabbè, voi siete limite, convinti, no? Che anche quello non sia un ambiente in evoluzione, che progressivamente il caso limite però Chef Rubio, no? Ma a me fa anche un po' impressione vedere Chef Rubio che poi cucina. Lo chef non lo vedi in cucina, quindi esatto. È nascosto, mentre il cameriere è di più di prossimità per il cliente. Comunque, Domenica dalla provincia di Ancona. Buongiorno cari, sono in Ancona proprio, città. Benissimo, allora da Ancona l'abbiamo messa un po' in periferia. L'avevamo spostata. Ragazzi, scusate, poi passiamo all'argomento per il quale velocissimo devo parlare, che mi hanno appunto chiamato per quello. Io penso che i tatuaggi, sì, nell'ambito ristorazione, ma non è meglio mettere, far rasare i cuochi le barbe che cadono i peli dentro i fornelli? Cioè... Beh, quello a livello sanitario effettivamente... Scusate! Vabbè, che bella immagine, Domenica, andiamo avanti. Vabbè. Cannavacciuolo non è d'accordo. Ragazzi, oggi sono tutti con queste barbe da talebani, compresi i cuochi, non ce n'è uno che è senza barba. Io penso che molti peli volino dalle padelle. Non mi tocchi Cannavacciuolo, non mi tocchi Cannavacciuolo, va bene. Poi bene, che ci vuole dire? Allora, no, dicevo che per quanto riguarda il tema di prima, io essendo ipovedente, non grave per fortuna, ma deambulo, ma con alcune difficoltà, sui treni io sono stata sempre trattata malissimo dai capitreni e ho dovuto chiamare più di una volta la Polfer a bordo per non giustificarmi, ma per spiegare loro che siccome esiste una legge nazionale che abbiamo diritto a fare quando non abbiamo accompagnamento il biglietto in treno, loro facevano la multa ed erano convinti di essere... Ma come mai tutti così? Se lei è ipovedente avrà anche magari un cartoncino, qualcosa, una tessera? Sì, io so sia la tessera dell'Unione Ciechi, tutto. E come mai la trattano male? Ma non ci voglio credere, perché? Sì, no, veramente... Ma è molto strano, qual era il problema? Che non le credevano, pensavano... Cioè, guardi, è un episodio che dovrei essere brevissimo perché il tempo che avete è molto poco, però eravamo a Bologna, io avevo insieme a me due ragazzine, mia figlia minorenne con un'amica, e addirittura il capotreno sul marciapiede ha detto guardi, non c'è possibilità perché le ragazze stanno arrivando da un altro treno, devo correre velocissimamente, non abbiamo i biglietti, io sono ipovedente, loro non possono scendere, salire, mi dia una mano. Lui ha cominciato a urlare, tra l'altro un ragazzo africano mi ha aiutato, difeso, e ha fatto partire il treno addirittura con il rosso, quindi è partito addirittura dal capostazione di Bologna, hanno mandato due persone a dire di stare attento perché faceva succedere un incidente, proprio perché era andato in palla proprio. Vabbè, insomma, adesso Domenica, accogliamo questo suo racconto, mi sembra davvero sbagliato, oltre che incredibile, insomma, visto che lei ne ha diritto a essere trattata così. Ci mancherebbe. Allora, dobbiamo andare a sentire le informazioni sulla borsa e poi c'è il grande tema di Spelacchio. Ebbene sì, anche noi ci siamo arrivati, anche noi un po' dopo gli altri, perché abbiamo cercato di resistere, perché abbiamo però detto il dibattito sul tipo di albero, no? Se è un larice, se è un abete rosso, un larice rosso. Ci poteva mancare il ricorso del Codacons, gli amici del demonio, il nostro amico Carlo Rienzi? No, è evidente che no. Tra l'altro poi Manera ci leggerà una cosa, perché ha trovato un pezzo gustoso e spassoso su Italia Oggi di Filippo Merli su questo, su Spelacchio. Hanno ammazzato Spelacchio. Spelacchio è vivo. Non è vivo. Questo è il problema. Come peraltro lo sappiamo già, adesso ci stanno già iniziando a scrivere gli ambientalisti, come tutti gli abeti che sono esposti in tutte le città, che vengono eradicati, esposti senza radici, quindi prima o poi moriranno. Ma si nota meno perché l'abete perde gli aghi un po' più tardi, capito, invece l'arice rosso, come sembra sia Spelacchio, li perde prima, però, per questo che si è notato di più. L'ambientalista ti dice è morto comunque, adesso per il tuo buon gusto del Natale non lo vedi, però l'hai tagliato, Leonardo, l'arice rosso comunque è un insulto razzista. Stai attento a come parli, l'arice rosso lo dice a qualcun altro. Che Spelacchio potrebbe resuscitare e dirtene quattro. Allora, la borsa e poi ne parliamo. Fiat festeggia Disney Pixar Coco al cinema e lo fa con un'offerta assolutamente, decisamente loca. 500L è tua a 15.500 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento meno 1.000 anziché 16.500 euro. E in più, per tutte le famiglie, 1.000 euro di extra sconto. Cosa? Famiglie, correte in concessionaria. TAN 595, TAE GOT 01, salvo approvazione FCA Bank. Fino al 31 dicembre sulla pronta consegna. Info su fiat.it. A Natale siamo tutti più buoni. Monge però è buono tutto l'anno. E voi lo sapete. Monge, le sciatte e Special Dog sono alimenti sani e genuini, senza coloranti, conservanti e senza zuccheri. Bocconi cotti al forno, patè cremosi cotti a vapore e crocchette con tanta carne fresca. Insomma, una vera prelibatezza. Il regalo ideale per il vostro cane e il vostro gatto. Buon Natale dalla famiglia Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Monge, il menù di Natale per cani e gatti.

la chiara manifestazione del maligno, il Codacons non ci doveva mettere lo zampino. Carlo Rienzi, buongiorno, ciao Carlo. Come va? Ciao, buongiorno, buon Natale. Eccolo qua, Codacons. Intanto abbiamo anche chiamato al volo, e lo ringraziamo, Stefano Cattoi della magnifica comunità di Val di Fiemme. Stefano Cattoi, buongiorno, direttore della Forestale. Eccoci qua, e grazie di essere qui. Allora, tutti gli ascoltatori, ci chiarisca intanto questa cosa: che albero era, lo parliamo al passato, un abete, un larice, qualcuno, un peccio rosso, cosa avete rifilato a Roma? Ai, no, piano, rifilato no. Non rifilato, no, no, rifilato, attenzione, no. Attenzione a come parli. No, dobbiamo stare molto attenti perché appunto siamo tutti nell'occhio del ciclone, no, ha vinto certo, anche sì. Un articolo sul New York Times, ecco. Siamo diventati famosissimi. Che albero? Ha visto, ormai, ha visto che è un attimo per la Radio 24, per la terza volta che sì, mi chiamate, esatto. Va bene, pagano bene. Pagano bene Radio 24, stipendi copiosissimi. No, tornando serio, si tratta di un abete rosso. Un abete rosso. Dice Excelsa, che viene anche chiamato, termini volgari, peccio. Peccio, il peccio rosso, peccio. Va bene. È solo ed esclusivamente quello, è un albero caratteristico delle Alpi, nelle nostre foreste cresce rigoglioso, abbiamo circa 30 milioni di alberi nella foresta della magnifica comunità di Fiemme, e questa è una specie in sintonia con l'ambiente. Allora, cresce certo. Ma quindi era solo Spelacchio l'esponente malato di tutta la foresta? No, non era assolutamente malato. Anche qui attenta. Le foto le abbiamo sentite ormai a tutti i giornali, se vogliamo trovarle ci sono, non c'è nessun problema. Non era malato, l'unica cosa sulla quale concordo è che quando l'abbiamo mandato era morto. Beh, ma questo esatto, perché si eradica. Ma succede a tutti, sì, no? Sì, tutti sì. Gli alberi che vengono mandati, esatto, per la città vengono mandati senza. Tra l'altro le do una notizia, Cattoi. Oggi, certo, ci scrive un ascoltatore, anche la BBC parla di, forse lo chiamano Spelaccio. Spelaccio? Spelaccio is dead. Ma positivo, ormai cosa vogliamo farci? L'ironia dei romani è proverbiale. Quello purtroppo stiamo sinceramente un po' soffrendo perché abbiamo molta amarezza, insomma, quello che volevamo forse anche una cosa bella per il Natale si sta rivelando. Ma tra l'altro lei ha una proposta, adesso tra poco ci arriviamo, perché quando ci poi ci mette lo zampino Rienzi, cosa volete? Già la situazione è grama, già ci pigliano per il culo in tutto il mondo. Cosa ma Rienzi volete? Quando la situazione è tragica subito tac, va lì e ci mette il dito nella piaga. Cosa pretendete? Cosa volete? Qui c'è una parte, diciamo, che dovrebbe essere da piangere, e cioè che abbiamo buttato 48.000 euro delle tasche nostre dei cittadini per portare qui un albero morto, che qualcuno sono tutti morti. Sì, che gli diceva però guarda, questo albero morto a Roma non sopravvive fino a Capodanno, fino all'Epifania, diciamo che è stato quindi un funerale costoso, ecco. Questa poteva essere la prima cosa, e sono soldi buttati e non ci piace, perché con quei soldi si poteva fare una pulizia straordinaria della città. Però Rienzi ci ha spiegato che sono tutti morti gli alberi, vengono mandati in tutte le città eradicati, quindi anche quello del Vaticano. È quello il punto, però. Ma c'è quello morto che però quando lo tagli sai che resiste almeno 30 giorni. Che almeno ti arriva alla Befana. Hai capito? Perché dopo la Befana, se non arriva neanche alla Befana è un problema. L'esperto questo doveva dire, quindi questa è la parte negativa e su cui bisogna fare chiarezza. Per il resto io non capisco, con la compagnia di tutte le foglie che aveva sto Spelacchio, perché si è così rattristato, perché tutte le foglie che si stanno per terra a Roma e stava in buona compagnia, no? Quindi non lo so, però questo Cattoi ci può dare, no, non, neanche lui sa una spiegazione del perché ci sia questo problema. Cattoi, perché si è, come dire, come dobbiamo definirlo, si è abbattuto, si è spelacchiato, giusto? Perché noi abbiamo solo delle ipotesi, perché appunto non siamo sul posto. Mi sono anche ripromesso di fare un salto a Roma, se me lo lasciate su fino all'Epifania il tempo salterà fuori, per capire, provare a capire un'ipotesi di cosa può essere successo, perché gli altri alberi sono rimasti sano e vitale, quindi questo mi piace contraddire Sorrienzi, ma l'albero stava bene, doveva durare tutte le feste, questo è vero, perché li abbiamo mandati anche negli anni scorsi a Roma e nessuno ha mai avuto problemi. Abbiamo foto di alberi davanti al Colosseo bellissimi. Ma abbiamo una foto di Spelacchio prima della partenza, Cattoi, per avere un prima e un dopo? No. Scusi, l'ho interrotta, non ho capito. No. Se abbiamo una foto di Spelacchio prima della partenza. Sì, nessunissimo problema, mi mandi un WhatsApp che le giro, ma... Ah, bello, sì. Ci sono, non c'è nessun problema. No, per capire... Banalmente ipotizzabile che comunque l'albero è una creatura vivente e quindi può soffrire anche un po' di stress uno rispetto all'altro. Io vedo le piante che metto a casa mia, alcune immediatamente perdono le foglie, quindi può anche darsi che non si sia trovato bene nella città eterna. Ecco. Però in realtà era già morto. Sì. Di trovarsi bene, ha ragione sul fatto che ogni pianta è un organismo vivente e ha le sue dinamiche, ha le sue... equilibri all'interno di una zona, in questo caso all'interno di una foresta, un ecosistema molto complesso con tanti organismi. Nel momento in cui viene tagliato, chiaro, muore, però sono ancora. Però voi avete fatto una proposta. Queste sostanze organiche che possono degradare più o meno velocemente, in questo caso degradarsi in maniera molto, veloce, molto, molto veloce. Cattoi, avete fatto una proposta, che è questa. A questo punto, ridatecelo. Ridateci Spelacchio, perché noi lo utilizziamo per la vostra disponibilità per lanciare un appello. Noi Spelacchio li vogliamo bene, proprio ormai ci ha preso il cuore. Abbiamo lanciato ieri un appello, diamo una seconda vita a Spelacchio. Siamo già in contatto con la ditta che deve poi smaltirlo, ce lo metterà a parte soprattutto la parte del fusto del legno, e stiamo studiando, però oggi non vi posso ancora anticipare perché c'è gente che ci sta lavorando sopra. E un qualcosa che per cosa vorreste continuare fare? La vita di Spelacchio attraverso quel legno. Cosa potrebbe diventare? Non lo posso dire perché poi si arrabbiano perché due giorni che ci studiano su però. Probabilmente qualcosa di oggettistica che poi però posso dire una cosa, posso dire, lei mi spaccia l'aspetto umano con l'aspetto economico, dice gli vogliamo bene e allora vendiamo, fermo, non è una questione di vendita perché allora sennò cadiamo e ci fraintendiamo. Noi qua vogliamo lanciare un messaggio che un albero è un organismo vivente che riesce a darci tante cose, a cominciare dall'ossigeno nel momento in cui vive, perché assorbe acqua e anidride carbonica, libera ossigeno. Quindi anche il fatto di sequestrare l'anidride carbonica non è da poco al giorno nostro. In più, quando si degrada, restituisce la stessa anidride carbonica che ha accumulato durante la vita. Ma noi pensiamo che se utilizziamo più legno riusciamo tutti a vivere meglio. Quindi non è un messaggio commerciale per dire... No, ma loro credono in questo. Però Cattoi, io voglio anche dirle che se lo mettiamo all'asta, secondo me, stamattina, Spelacchio, ci si fanno un sacco di soldi. All'asta, ma così proprio è lucrare su questa cosa. No, sono convinta. Tocca per chiudere questa vicenda, Carlo Rienzi, non so se hai capito il messaggio di l'appello di Cattoi, toccherà spendere altri 40.000 euro per restituirlo. No, io sono per fare un'altra proposta, di farlo diventare un'opportunità, cioè questo Spelacchio che ormai è famoso in tutto il mondo, deve dire il comune, ecco, questa è la città come oggi, ma noi la vogliamo far risorgere, e attenzione che gli alberi quando si uccidono, quando si tagliano, poi fanno questa fine, allora cercate di non tagliare gli alberi, i fiori recisi, cioè è tutta una situazione in cui i giovani potrebbero imparare un sacco di cose, per esempio ci sono delle aziende, non dico il nome, che danno questi alberi gratuitamente, poi glieli riporti e li ripiantano, se no fare l'albero finto, cioè ecco, può essere un Natale ecologista. Natale ecologista di Carlo Rienzi, va questo bene. È l'esposto. Però ci tengo a dire che mi ha mandato un messaggio il mio amico Dario Vergassola che si chiede che legno useranno per fare la cassa da morto a Spelacchio, quindi ve lo volevo leggere in diretta. Perché... Sì, mi sembra giusto. Ah, dai, alle 10:46 minuti, ringraziamo Stefano Cattoi, magnifica comunità di Val di Fiemme, e Carlo Rienzi, presidente del Codacons. La vicenda di Spelacchio è andata così, il traffico. I funamboli. Ciao Nico da Brescia, sono seriamente preoccupato, mi trovo in sintonia ultimamente con quello che dice Veronica. Ai ai ai, non starò diventando anch'io uno di... Liberi è uguali! Non lo sappiamo. La sintesi, c'era Brunetta sappiamo. In Liberi Uguali anche, hai sentito? Sì, sì, sì. Ormai tra l'altro c'è chi ci scrive: ma se volevate bene a Spelacchio non lo segavate alle radici. Oh, criminali, ma tu abbiamo spiegato mille volte, tutti gli alberi esposti, anche quello in Vaticano eccetera, vengono segati e mandati senza radici, quindi sono tutti morti, poi resistono un po' e... Però anche c'è da dire, ma adesso che dobbiamo fare la campagna, allora non dobbiamo, basta, non dobbiamo avere un mobile. C'è un'altra lettura, Spelacchio è morto per incompatibilità politica, lui, Rosso, non poteva stare vicino ad un monumento di destra, adesso, anche questa va letta anche così. Questa. Cosa parte, questa nuova campagna che non si può più spaccare la legna da mettere nel camino, gli alberi non possono essere tagliati, oh mamma mia. Ragazzi, è vero che però per chi vuole l'albero di Natale è vero, domestico, quello si può prendere con le radici e poi alla fine si può ripiantare. Ma in questi casi no, in questo caso no. No, quelli grandi no. Grandi, però grandi, quelli domestici no. Sì, assassini di Spelacchio. Allora è arrivato qua con un'irruzione al solito annunciato dalla sigla classica, lo vedo qua, è già in piedi. No. Ma no. Dai, anche prima di Natale è già in piedi. Manca voi, state qua a occuparvi dei alberi, non interessa le persone, no, voi ecologisti. Pensa alle persone, no, agli alberi, anche a questo, no, a Mina e anche all'altra gentile tanto onesta pare. Sì. Perché in Italia la situazione è difficile. Come sta Battista? Ma io sono preoccupato per la vostra, per il vostro modo di fare, che anche non mi piacciono, che non è veramente dalla parte dei cittadini. Che abbiamo fatto? Che il problema, voi non parlate di quelli che rubano. Che quelli che rubano sono quelli che hanno più soldi, e quello che ruba più di tutti è lo Stato. È vero o non è vero, Mina? Stato ladro, lei già dice. Stato ladro. In Italia lavori 6 mesi all'anno per pagare le tasse, poi te deprimi e paghi gli altri, lavori altri 6 mesi per pagare lo psicologo. È vero o non è vero, Mina? A volte capita, a volte, purtroppo. E poi le tasse cosa servono? A mantenere i negri, gli extracomunitari, i negri. A volte gli extracomunitari è più tutelati degli italiani. Ci sono italiani che per essere tutelati vanno in giro truccati del nero. Mina! Anche l'altra amica destra comunitari. Ecco, appunto. E c'è anche il problema della sicurezza. Ogni volta che esco per andare in banca c'è sempre il rischio di trovare qualche rapinatore dietro lo sportello. Una volta quando andavi in banca ti davano il fido, adesso se chiedi un fido ti scatevano contro un Doberman, capisci, Mina? Sì. Quelle banche dicono che per far rendere i soldi bisogna farli girare i soldi. Alla fine li hanno fatti girare così tanto che non ne trovano più neanche loro, quelle banche, capisci, Mina? Troppo facile qua da dietro il microfono, no? Siamo in troppi in Italia. Una volta quando andavi in ospedale c'erano tutti i reparti, c'era il reparto di pneumologia e quelli di Torino, e Torino laringoiatrasi, invece tutti ammassati in corridoio, che se non stai attento invece l'infermiera che ti mette la flebo, c'è la donna di pulizia che ti mette il flacone del breath professional, Mina, capisci? Poi torni a casa, non puoi fermarti a un semaforo, c'è tutti i zingari extracomunitari che ti vuole lavare il vetro, che te lo sporcano ancora di più. Io ormai in macchina, nel cruscotto, tengo un flacone del breath professional, così se al semaforo vogliono lavarmi il vetro almeno usano i miei prodotti. Ah, do anche la moneta e poi vado a fare lavarmelo io il vetro, così servizio completo. Io al semaforo, Mina, ho visto zingari col cartello che dice che ha 10 figli. Allora ho visto un automobilista che si è fermato e gli ha dato un preservativo invece di dare la moneta, capisci, Mina? Io non ho niente contro i zingari, ho anche il CD di quella canzone che dice ho visto anche zingari felici, li ho visti quando mi ha rubato il portafoglio, ho visto zingari felici, capisci, Mina? Allora, per concludere, io penso che tutti questi personaggi ai semafori vengono messi apposta dal comune, perché così al semaforo l'automobilista, per non fermarsi, passa col rosso, così il comune ti dà la multa e incassa. Quei personaggi sono delle comparse messe dal comune per darti le multe, Mina! Perché lo Stato proprio è più ladro di tutti i zingari messi insieme. Io la penso così. Parola di Battista da Cavaglion Veronese. Oh, anche lei però davanti al microfono. È facile davanti al microfono. Ah no, è facile criticare. Io lei avrà il CD dei Nomadi allora. Non fa ironia facile. Non fa ironia facile. No, pensa ai problemi veri della gente. Non ce l'ha. Allora signori, qui siamo alla penultima puntata prima di Natale. È giovedì, giusto? Sì, domani, ragazzi, è venerdì. Ci siamo quasi, Ci siamo quasi, poi ci fermeremo qualche giorno, ma non vi abbandoneremo perché ascolterete durante tutte le vacanze di Natale il meglio dei Funamboli. Ma vogliamo lasciarvi oggi con un finale scoppiettante. Cara Veronica, tu hai la paletta da 0 a 10 pronta? Certo, sono pronta. Tu, Leonardo, ce l'hai? C'è qualcuno che canta, immagino. C'è qualcuno che canta. Il mitico Dejan Cednikovic con karaokereporter.it, trovate tutti. Ha beccato un altro politico, in questo caso una politica, Roberta Lombardi, Movimento 5 Stelle, si candida alla regione Lazio, se non sbaglio, anzi non sbaglio. Ed eccola qua, cosa canta Roberta Lombardi? È un volo a planare. Bene. per essere inchiodati qui. Ma per te. Ok, per ora. Ci fissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Vai. Non sono una signora, una con tutte stelle intonata, vita. A ritmo, a tempo, intonata. Se lo porta a casa. Adesso Miriam Lucchetti dirà, vabbè, non avrà la grinta di Loredana Bertè, ma insomma, fatti di fermare tu per Sanremo. Strada da Cetnikovic. Senti. Adesso c'è la consueta domanda dopo insomma il perché c'è la domanda alla fine. In questa regione balera. Ci vuole una signora l'ironia di Cetnikovic. Ci vuole una signora e tante stelle, come dice la canzone. L'ironia di Cetnikovic in questa signora balera. Vai, ti sei casata. Vabbè, insomma. Allora, sto voto. E io le do un 7.5. Io un 6.5, dai. Sì, anch'io darei un 6.5, 7 meno meno. Direi che se lo porta assolutamente a casa in maniera molto dignitosa. Sono il solito prof di manica larga, no? Quello che a matematica dava un voto in più. Che il tuo voto fa il paragone con gli altri che abbiamo sentito cantare. Allora, in quel caso anche 8. Rispetto agli altri, dai. Rispetto agli altri è molto meglio. Intonata. Dai, i funamboli si fermano qui per oggi. Ci troviamo domani alle 9. Potete scriverci ovunque. Abbiamo l'account Twitter Funamboli24. Siamo su Facebook funamboli@radio24.it e la mail. Senti la Lombardi, sentila però. Sì. Hai visto come in un attimo. Ma perché ha voluto fare la politica allora? Non lo so, infatti, vedi, ha preso bene il ritmo, guarda come. Hai capito? Ma senti poi che voce roca, però potente. Potente, brava sta Roberto. Guido Baldo che ne penserà. Brava, Lombardi, brava. A domani.